Vendo tutto di Matteo Caccia. La mia chitarra la suona la figlia di Guglielmo. Con il mio computer Luca ci sta già lavorando. Mentre con la mia stilografica Emanuele sta scrivendo il diario della sua nuova vita. Queste sono solo alcune delle persone che hanno comprato le mie cose. E molte altre ne verranno, perché io vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta, oggi vendo un violino. Sono le 16 e 10 minuti, a Milano splende un grande sole, c'è un grande caldo nella sera del sole 24 ore, e oggi però si parla di strumenti. Oggi vendo il violino, che è un oggetto che in realtà non è mio, cioè ormai è mio, perché me lo sono preso, però è un oggetto che ho trovato, l'ho trovato smarrito su un treno. Ecco perché mi piacerebbe sapere da voi anche se avete mai trovato degli oggetti di altri, chiaramente, e ve li siete tenuti. Ve lo chiedo all'800240024 oppure un sms al 349-238-6666. Non è però il primo strumento che vendo, è il primo strumento che vendo che ho trovato, ma non è il primo strumento che vendo. Ho venduto la seconda puntata una chitarra e qualche puntata dopo ho venduto dei bonghi. Nessuno in questa redazione ci credeva, ma qualcuno se li ha comprati. Quel qualcuno è Lorenzo. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Ciao Lorenzo, buongiorno, come stai? Benissimo. Lorenzo, tu sei di Belluno, giusto? Ora, la domanda nasce spontanea. Perché una persona seria, mi pare di sentire dalla voce, anche dalle chiacchiere che abbiamo fatto prima fuori onda, con una famiglia, una moglie e una figlia, mi pare, o un figlio? Figlio. Un figlio, ma in attesa di un altro bambino, giusto? Esatto. Perfetto. Per quale motivo un uomo come te, che vive a Belluno, si compra due bonghi come quelli? Ma ci sono due, tre motivi. Dammene uno, Lorenzo, uno al volo. Investimento per il futuro, perché aspettando che tu diventi una celebrità, un giorno potrò dire... Guarda. E allora hai un po' di tempo da aspettare, Lorenzo. Però è la seconda ragione? Secondo motivo è perché, non sapendo suonare né la chitarra né tantomeno il violino, ho pensato che i bonghi fossero l'unico strumento. Guarda, secondo me, se aspetti ancora un po', tra un po' venderò un kazoo. Hai presente cos'è il kazoo? È quello strumento che metti in bocca e fa... Quello è quello che proprio non c'è bisogno di sapere suonare niente, devi solo fare dei versi. Lorenzo, tu quanti anni hai? 34. E cosa fai nella vita? Nella vita mi definisco un microimprenditore, agente di commercio, microimprenditore, nel senso che cerco di accomunare 3-4 attività che sto portando avanti da qualche anno. E questo ancora di più mi fa domandare perché te li sei comprati, sti bonghi. Senti, i bonghi ti sono arrivati, tutto a posto? Certo, sono lì con te? Sono fedelissimo ai bonghi, quindi... Ecco, allora ti chiedo, e poi magari ti lascio andare, che non voglio sottrarre tempo prezioso al tuo lavoro. Mi fai sentire una suonatina, perché so che sei già migliorato, tua moglie ne è già felice, tra l'altro. Certo, infatti non vede l'ora di... Fammi sentire qualcosa, Lorenzo. Va bene, proviamo. Vai. Lorenzo è il tipico incapace coi bonghi, ma io ti ringrazio, Lorenzo, primo perché me li hai comprati e secondo perché ti stai mettendo d'impegno. Grazie mille, buona giornata, in bocca al lupo a tua moglie. Ciao, ciao. Ciao Lorenzo, grazie. 800240024, non per insultare Lorenzo, che invece è stato così carino a suonare in diretta i bonghi per me e per tutti voi, ma per raccontarmi di quell'oggetto che avete trovato ovunque fosse. Io il violino l'ho trovato su un treno e a breve vi racconterò dove, come e perché, però gli oggetti si smarriscono e quindi si ritrovano ovunque. 800240024 oppure un sms al 349-238-6666. Parliamo però del mio violino. Se lo potete vedere, la foto è anche bellissima e lo violino è bellissimo. La trovate sul sito radio24.it. Se volete sentire la sua storia, eccoci qua. Il violino. Violino Shimro, Stradivari Copi, lavorato a mano, corde nuove appena cambiate, fabbricato in Corea, anno di produzione 1995. Lunghezza 60 cm, larghezza 20 cm, peso 350 grammi. Perfetto per principianti o per chi crede nel destino degli oggetti ritrovati. Valore commerciale 120 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Perché perdiamo le cose? Ancora non ho capito bene perché si comprano le cose. Cioè, se alla base c'è sempre un bisogno reale oppure una specie di volontà di accumulo. Però per me è ancora più misterioso capire perché le cose le perdiamo. Non so come, ma ci sono oggetti che nella mia vita io ho sempre perso, con una serialità che è quasi inquietante. È vero che ci sono oggetti che sono facili da perdere, come gli occhiali da sole, le sciarpe, i guanti. Ma a me è capitato di perdere almeno 10 magliette, un cuscino da divano e addirittura dei piatti. Mi sono più volte ritrovato a dire, boh, non so dove l'ho messo, che per un cellulare o un portafoglio è pure comprensibile, ma per un cuscino, in una casa di 60 metri quadri, lo è un po' di meno. Ho letto da qualche parte che inconsciamente ci sono cose che anche se ci appartengono non vorremmo possedere. Oggetti che hanno qualche legame con un passato che nemmeno ricordiamo, che però galleggia nella nostra coscienza e ci fa sentire avversi dei luoghi, delle cose, addirittura delle persone. È un po' come se la nostra pancia fosse più intelligente della nostra testa e sapesse cosa fa bene per noi e cosa no. E quindi, ad esempio, fa riempire di polvere vestiti che compriamo e non mettiamo mai, o non ci fa fare degli sport per cui abbiamo comprato tutta l'attrezzatura. Una sera, qualche tempo fa, ho fatto una cena con un po' di persone. Tra queste c'era una ragazza che non conoscevo, francese, amica di amici. Mi è stata immediatamente antipatica. A parte che sembrava distratta, non parlava con nessuno per tutta la cena, non l'ha fatto. Poi più tardi, quando un po' di persone se ne sono andate, siamo rimasti in pochi, lei mi ha confessato che in casa mia stava a disagio. Lì è intervenuto l'amico con cui era, mi ha detto che lei aveva dei poteri medianici. Io, scettico un po' come un gatto, ho annuito per non far vedere che stavo pensando, quella, abbiamo la medium in casa, eh? Poi però lei mi ha raccontato le sensazioni che aveva provato in casa mia e io, per quanto scettico, ho iniziato a inquietarmi un po'. Lei sosteneva che in casa mia molti anni prima aveva vissuto una persona sola, molto chiusa. Diceva che non capiva se fosse un uomo o una donna, ma che qualcosa di quella persona era ancora in quella casa e non le piaceva che le persone fossero felici. Io, preso dal panico, provai a dirle che io non ero per niente felice, che erano anni che non ero felice e che non avevo alcuna intenzione di esserlo. Però non feci in tempo perché lei mi disse, ad esempio, ti è mai capitato di perdere delle cose qui in casa? Ecco, io dopo quella sera ho come cancellato questa storia. Quella storia che lei mi ha raccontato di questo spiritello che vive in casa mia e fa i dispetti e mi nasconde le cose. Mi sono convinto semplicemente che la signora che viene a fare le pulizie ogni tanto si prende qualche maglietta per il marito o dei piatti per il suo servizio di casa. Punto. Insomma, non ho mai capito perché si perdano le cose, però mi è capitato di tenere con me una cosa persa da qualcun altro. È il violino di oggi. L'ho trovato abbandonato su un treno e me lo sono portato a casa. 80024-0024. Una domenica sì e una domenica no, torno a pranzo a casa dei miei. Romentino è vicino a Novara, si trova a 38 km da Milano. Il treno parte da Porta Garibaldi e si ferma in tutte le stazioni. Certosa, Rho, Vittuone, Corbetta, Magenta e Trecate. E arriva a Novara in circa 45 minuti. La domenica i treni regionali hanno un'aria desolata. I pendolari sono a casa e cercano di non pensare che domani ricominceranno tutto da capo. I capotreno controllano i biglietti senza guardarli e pochi viaggiatori non si capisce mai dove stiano andando. Era primavera inoltrata, io stavo leggendo un libro che non mi piaceva, quindi mi distraevo ogni 30 secondi, eppure non lo mollavo. Avevo deciso che l'avrei terminato e così doveva essere. Non ricordo chi fosse seduto vicino a me, ricordo però che alla stazione prima di Novara quasi tutti i passeggeri sono scesi. Io lì ho chiuso il libro e mi sono messo a guardare fuori, che in aprile le risaie sono già piene d'acqua. E vista in prospettiva la campagna sembra un lago a quadretti. Poi il treno ha iniziato a rallentare. Io ho messo il libro nella borsa, mi sono infilato la giacca, ho preso il sacchetto con i pasticcini e sono andato verso l'uscita. Però mentre ero quasi davanti alla porta ho sentito la voce di una donna che diceva «Scusi, ha dimenticato il violino!» Io mi sono girato e ho visto una signora piccola e anziana che indicava la cappelliera sopra il sedile in cui ero seduto io, dove c'era una custodia nera a forma di violino. Io sono rimasto immobile e allora lei ha ripetuto «Il suo violino!». Mi sono guardato in giro, lo scompartimento era vuoto. L'ho ringraziata, ho fatto due passi indietro, ho afferrato la custodia e sono sceso dal treno. Questi ultimi gesti li ho fatti con una sicurezza tale che nessuno avrebbe potuto pensare che quel violino non fosse mio. Il modo in cui ho preso in mano la custodia e l'ho fatta roteare dalla cappelliera fino giù, lungo il mio fianco. Il modo in cui lo impugnavo mentre scendevo alla stazione ha convinto anche me che quel violino fosse mio. Non so chi l'abbia abbandonato, Non so se l'ha fatto volontariamente oppure no. So che quando la signora lo ha indicato e lo ha definito il suo violino, per me quello è diventato il mio. Sono arrivato a casa dei miei, ho pranzato e ho raccontato questa storia. Mia mamma mi ha detto che secondo lei era un segno, che avrei dovuto iniziare a suonarlo. Mio padre ha fatto notare che a 30 anni forse era un po' tardi, però anche a me, che di solito non ci credo, in quel caso piaceva l'idea del segno del destino. Sono tornato a casa, l'ho preso in mano e ho iniziato a suonarlo, facendo questo suono qui. Fino a che i miei vicini hanno bussato contro le pareti. Avevano ragione loro, così come avevo ragione io a non credere nei segni. Ecco perché, nonostante tutto, nonostante i segni del destino, nonostante il fastidio che fa se non lo sai suonare, questo violino è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 120 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Sono le 16:22, questa è Radio 24, invece al 349-238-6666 mi scrivono, a parte che ogni giorno c'è un personaggio di cui mi sono già innamorato, che praticamente è un po' tutte le persone che nomino in ogni puntata. Oggi è la donna delle mie pulizie, dice: stasera quando torno a casa vedi dove te li metto, i piatti e le magliette e il cuscino del divano, ti ringrazio. Poi invece Luca, che ha lavorato in giurisprudenza, mi scrive: tecnicamente il violino l'hai rubato. Grazie Luca. Ciao, anni fa sul pavimento di un parcheggio sotterraneo ho trovato una copia di 3 metri sopra il cielo, prima che diventasse famosa e ci facessero un film. Dopo 2 pagine di lettura ho smesso di leggerlo e l'ho buttato perché era di una banalità sconcertante. Immaginate lo sconforto quando ho scoperto che qualcuno ci ha fatto un film. Lo sono andato a vedere e l'ho trovato peggio del libro. Ciao Felice, 800240024, andiamo in provincia di Brescia. Giuseppe, pronto? Sì, ciao. Ciao Giuseppe, come va? Tutto bene. Bravo, bene. Anch'io. Dalla voce mi sembri un po' giù, però è solo una sensazione, vero Giuseppe? Un po', scusa? Mi sembri un po' giù. Ma... è una giornataccia. No, sono in autostrada, sono un po' stanco dalla settimana. Che lavoro fai, Giuseppe? L'agente di commercio. Quindi sei sempre in giro. Fortuna che non fai il consulente, perché ci capita un consulente al giorno. Dimmi che cosa hai ritrovato esattamente, Giuseppe. Ascolta, io qualche anno fa ho trovato un modellino di auto in un bar nel mio paese. Sì. E io da piccolo avevo la passione dei modellini di auto. E allora è stato così piacevole perché ho sempre, e da piccolo, fin da piccolo ho avuto la passione. Che auto era, scusami Giuseppe? Era la miniatura di un'auto della polizia, di un Alfa Romeo della polizia. Ok, e ce l'hai ancora? Sì, ce l'ho ancora, l'ho aggiunta alla collezione che poi, vabbè, facevo da piccolo, poi non ho più continuato. Mi fa piacere. Ti ringrazio Giuseppe, buona giornata. Ciao, grazie. 800240024, andiamo da Nicola in provincia di Vicenza. Pronto? Ciao, come va? Bene Nicola, però devo chiederti di abbassare o di spegnere la radio. Io sono addirittura lontanissimo dalla radio in questo momento. Addirittura, quindi sento un ritorno che non capisco come mai, ma raccontami che cosa hai trovato. Io ero in vacanza in Calabria, a Capo Vaticano, un posto di rara bellezza, e in una calletta dove si arriva solamente in barca o facendo sentieri impervi a piedi, stavo nuotando e a 6-7 metri di profondità c'erano questi occhiali da sole, sì, molto belli, e insomma in 2 o 3 tentativi sono riuscito a prenderli, saranno stati 5-6 metri, una roba del genere, e insomma li ho tirati su con grande soddisfazione, li ho portati, li ho ripersi. E mi piace pensare che abbiano avuto 2 o 3 vite attraverso, sì, due o 3 proprietari. Esattamente. Che abbiano visto cose diverse. Dove li hai ripersi, Nicola? Dove li ho persi? Sì. E chi lo sa, a un certo momento non li ho più trovati. Nicola, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, a te, ciao. Andiamo a Parma, ciao. Da Giuseppe. Pronto, Giuseppe? Sì, pronto, ciao. Ciao, stai bene? Sì, tutto a posto. Bravo, raccontami che cosa hai trovato. Allora, io ho trovato un paio di anni fa dentro il cestino dove, davanti al bar, sa che ci sono quei cestini rotondi dove si butti la carta. Sì. Passando ho visto qualcosa che luccicava. Allora poi sono ripassato, ho visto che era una collana di perle. Nella spazzatura? Nella spazzatura, io non so chi l'avesse buttata. Allora, solo che era davanti al bar, c'era un sacco di gente, non sapevo se cioè infilare la mano e prenderla mi sembrava brutto, sono ripassato, ci ho ripensato, ma sì, ma quasi quasi la prendo. Sono arrivato là, ho guardato a destra, ho guardato a sinistra, in un attimo ho infilato la mano e sono scappato via, no? E quindi l'hai presa? L'ho presa. E cosa ne hai fatto poi? No, poi pensavo, sai, trovandola nella spazzatura pensi che sia... che siano, che so, finte, no? E invece? E invece l'hai fatto vedere allora, poi erano tutte vere. E l'hai data dentro, l'hai regalata, cosa ne hai fatto? No, poi l'ho regalata a mia moglie e intanto la metto. Immagino, direttamente dalla spazzatura. Grazie mille, ciao e buona giornata. Invece volevo leggere il programma, probabilmente da Vendo Tutto si trasformerà in Vale Tutto, perché mi scrivono: caro Matteo, anch'oggi mi sono liberato di qualcosa, mi hanno appena asportato un neo, volevo condividere con te questa bella notizia. E Vale Tutto vale anche ringraziare Laura Faginti, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Il violino è visibile sul sito radio24.it e lunedì si continua. Lunedì è l'8 di marzo, essendo la festa della donna vendo un paio di scarpe col tacco, chiaramente non erano mie. Voi se non ve ne fate nulla invece degli oggetti che avete trovato, liberatevi, che alla fine anche quelli sono solo degli oggetti. Love, love, love,